forse qualcuno riderà, ma anche a te offriamo un fiore, sai perché? 'Cause we love you, che vuol dire amiamo voi, and we love you, solo chi non capirà riderà. Altri che portano fiori come noi hanno già capito che la forza è qua. 'Cause we love you, che vuol dire amiamo voi, and we love you, e cercate intorno a voi, cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Anche a te offriamo un fiore se lo vuoi, che ti dà un orizzonte che non hai. 'Cause we love you, che vuol dire amiamo voi, and we love you, e cercate intorno a voi, cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Fiore se lo vuoi, che ti dà un orizzonte che non hai. 'Cause we love you, che vuol dire amiamo voi, and we love you, e cercate intorno a voi. 'Cause we love you, e un fiore vi dirà that we love you, e cercate intorno a voi. Because we love you. See, see, we love you. Yes, we love you. See, we love you. Yes, yes, we love you.